Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di rivoluzione e ne parliamo con Federico Fubini. Buonasera Federico Fubini. Buonasera. Federico Fubini è giornalista, inviato del Corriere della Sera, segue molto i temi economici italiani ma soprattutto internazionali e ha scritto per Mondadori il libro Noi siamo la rivoluzione. Storie di uomini e donne che sfidano il loro tempo. Come mai questo titolo, Fubini? Ma io avevo voglia, avevo scritto un libro un paio di anni fa, Destini di frontiera, che parlava di come la globalizzazione, quella che chiamiamo globalizzazione, cambia le vite delle persone comuni. Questa volta avevo voglia di avvicinarmi ancora di più a persone vere in carne e ossa e raccontare di come questi grandi cambiamenti globali cambiano le vite di persone che sono apparentemente lontane da noi o sono andato a cercare a parlare con protagonisti anche molto lontani, donne divorziate in Arabia Saudita, il re del Bhutan che ha introdotto la felicità interna lorda e poi è sparito sulle montagne dell'Himalaya, non vuole più parlare con nessuno, di fatto fa una vita da monaco, però volevo anche far capire che quando si parla di globalizzazione parliamo anche di noi, non parliamo solo dell'Asia emergente o dell'Africa adesso emergente, parliamo anche delle conseguenze che ci sono da noi ed è per questo che oltre ai capitoli in paesi lontani ho voluto scrivere anche un capitolo su una zona a noi molto vicina, la Calabria, il sud, come la globalizzazione cambia l'economia del sud. Dunque è una storia veramente di individui, di persone che cercano di affermare la propria libertà in una fase di cambiamenti così violenti anche come ci sono in questo periodo, sia lontano sia anche molto vicino a noi. Quindi ecco un giro del mondo, alcune storie di persone che hanno svolto un ruolo da protagonisti pur essendo appunto storie di persone normali che sono trovate a vivere delle circostanze che li hanno portate ad essere protagonisti, quindi a fare qualcosa di anticonformista. Quindi fin dall'introduzione tu parli della necessità in fondo della volontà di sconfiggere il conformismo diffuso, un conformismo che ha anche una radice economica. Tu citi Keynes, il quale analizzava il fatto che le scelte delle persone durante la crisi cercavano soprattutto di adeguarsi alle scelte degli altri più che di fare delle scelte proprie, e questa è una realtà diffusa. Il conformismo è uno dei problemi che dobbiamo affrontare di fronte alla crisi, a questa crisi globale, Fubini? È esattamente il mio punto di partenza. Mi sono detto che in Italia ci mancano alcune materie prime, per esempio ci manca il petrolio, però ci manca anche la materia prima di quello che io chiamo anticonformismo. Però stiamo attenti, io quando parlo di anticonformismo non parlo di andare in giro con un anello al naso o con i capelli dipinti di verde. Si può essere impeccabili e anticonformisti, perché anticonformisti vuol dire soprattutto pensare con la propria testa. Questo è qualcosa che a volte, forse effettivamente a causa della crisi, si tende a non fare, perché si pensa che sia rassicurante accettare delle versioni condivise che però non portano a un progresso, non portano a veramente fare un passo in avanti. È per questo che nei 7 capitoli del libro, in ogni capitolo ho preso un protagonista anticonformista che sfida il suo tempo, ragiona con la sua testa e realizza veramente qualcosa di particolare. Ecco, da questo punto di vista tu citavi Keynes, ho trovato geniale quello che scrive Keynes, cioè che nei mercati finanziari ogni investitore non investe come un po' un concorso di bellezza in cui vince la ragazza che ha il maggior numero di voti, ogni investitore non investe nel titolo che pensa sia il migliore, ma cerca di capire qual è il titolo che gli altri pensano che sia il migliore, perché così pensa che gli altri lo voteranno, lui investe anche su quel titolo e vincerà. Dunque siamo in una situazione in cui tutti non decidono con la propria testa qual è la scelta preferibile, ma tutti cercano di indovinare cosa pensano gli altri per fare altrettanto. Ecco, possiamo dire che siamo in una situazione in cui manca la creatività, manca la capacità di pensare che noi possiamo pensare con la nostra testa e che quello che pensiamo può essere giusto, può essere più costruttivo, può essere più facilmente, in un certo senso, vittorioso rispetto al pensare come fanno tutti gli altri. Guarda, i 7 personaggi dei 7 capitoli del mio libro hanno in comune questo messaggio, che ragionando con la propria testa, cercando di sviluppare la propria creatività, si può fare una differenza, sia che siamo in Arabia Saudita, sia che siamo in Tunisia, nell'India maoista o in Italia. Ecco, quindi l'Italia, per esempio, Catanzaro, la patria dei call center, è l'ultimo capitolo del tuo libro. Che cosa insegna per il Mezzogiorno l'esperienza di questo candidato, Salvatore Scalzo, candidato sindaco, con varia fortuna, peraltro? Esatto, allora io sono partito per Catanzaro perché mi aveva molto incuriosito la vicenda di questo ragazzo, 27 anni, funzionario della Commissione Europea, cioè uno che, se vogliamo, aveva risolto la sua vita partendo da Catanzaro, era arrivato a Bruxelles, dunque si era, se vogliamo, anche liberato dalla arretratezza economica di Catanzaro, si era emancipato completamente. Lui ha accettato di tornare, di candidarsi sindaco contro naturalmente i potentati locali, che sappiamo che possono essere molto difficili, e un voto molto legato al sistema clientelare, eccetera. E mi aveva molto colpito, uno, che a 27 anni Salvatore Scalzo è più giovane circa del 90% degli elettori, perché come sappiamo l'Italia è un paese vecchio che sta invecchiando, dunque sfidava una situazione già di per sé molto difficile. E due, che in Italia alle elezioni locali, le ultime che si sono tenute, è stato il candidato che ha avuto la quota più alta di voto disgiunto. Cosa vuol dire? Cioè il 50% di voto disgiunto vuol dire che il 50% in più di persone hanno votato per lui rispetto a quelle che hanno votato per la sua lista. Che vuol dire che ha avuto un fortissimo impatto e di richiamo proprio il fatto di essere così giovane e così, se vogliamo, anche coraggioso e anticonformista. Salvatore ovviamente non ha vinto, perché è molto difficile vincere a Catanzaro, dove nelle elezioni comunali si incrociano i voti in maniera molto attenta, clientelare. Tu lavori per me, dunque devi votare per un certo candidato, eccetera, eccetera. Sono andato a cercarlo, a parlare con lui, e mi sono reso conto, ma non me lo aspettavo, che Catanzaro è diventata quella che ho chiamato una Bangalore d'Italia. Cosa voglio dire con questo? Che c'è di fatto un tasso di disoccupazione giovanile così alto, probabilmente intorno al 60-70% se guardiamo alla disoccupazione reale, e non stiamo parlando di gente con la licenza elementare o la licenza media, stiamo parlando di laureati, così alto che oramai i ragazzi lavorano per niente, sono disposti a lavorare anche per 2 euro all'ora, che è una somma da paese che oggi chiamiamo emergente, 10 anni fa lo chiamavamo terzo mondo, e la conseguenza di questo è che tutti i call center italiani si sono spostati là. Oramai il settore dei call center è il principale settore in termini di offerta di posti di lavoro a Catanzaro, il 10% della popolazione di Catanzaro lavora nei call center, e un pochino come succede a Bangalore, questo settore dell'economia si sta espandendo molto rapidamente, si passa semplicemente dai centralini che le aziende delocalizzano a Catanzaro, ma oramai si parla anche di diagnostica online, la radiografia che viene letta, di back office delle grandi aziende, addirittura di credito al consumo, ci sono banche e società di credito al consumo, di quelle che per intendersi vi danno i 10.000 euro per comprare la cucina nuova o i 20.000 euro per comprare l'auto, che lavorano da là, con magari vanno nei paesini della Sila dove prendono le casalinghe, che si fanno 4 ore di call center cercando di vendere credito al consumo a persone che stanno a Trieste, a Milano, in Piemonte, come dire, una piccola globalizzazione di casa nostra. È come se Thomas Friedman diceva il mondo è piatto. Forse è quasi che l'Italia sia diventata piatta. Tutte queste attività che possono viaggiare su un filo del telefono, su un cavo a banda larga, vanno nella zona più a basso costo e appunto vanno a Catanzaro. Ecco, ma per concludere, proprio guardando un po' al Mezzogiorno, Fubini, perché peraltro ha anche pubblicato un ebook, La Cina siamo noi, che parla appunto di come cambia il lavoro, la società, la vita del Mezzogiorno d'Italia. È questa la prospettiva che possiamo offrire al Mezzogiorno per tornare ad essere unito in fondo al resto d'Italia sotto il profilo economico e sociale, oppure stiamo sbagliando qualcosa? Guarda, io penso che questo sia un vicolo cieco, perché da un certo punto di vista è abbastanza, se vogliamo, normale che quando perdiamo competitività e non possiamo più svalutare la moneta, svalutiamo l'altro valore che ci resta, che è il lavoro. Dunque la svalutazione la facciamo all'interno, la facciamo sul costo del lavoro. Se vogliamo è normale, ma io penso che sia un tentativo destinato alla sconfitta, perché più svalutiamo il lavoro, più indeboliamo la nostra economia, e più indeboliamo la nostra economia, più il debito diventa insostenibile, perché non possiamo diminuire il debito in parallelo alla forza dell'economia. Dunque, questa è una strategia sbagliata, dovremmo uscirne cercando di aumentare la produttività, la capacità di reazione, come ha fatto Salvatore Scalzo o come hanno fatto altre persone di cui parlo, come per esempio questa ragazza etiopica, diventata una funzionaria importante alla Banca Mondiale, ha mollato tutto per tornare in Etiopia e aprire una borsa del caffè elettronica collegata alla borsa di New York, che è diventata oramai la principale borsa delle materie prime in Etiopia. Quindi, allora io mi dico, se questa capacità di iniziativa è possibile in Etiopia, perché non da noi, perché non al sud? Ecco, questo è in fondo il messaggio di tutto il libro lo ricordo, Noi siamo la rivoluzione di Federico Fubini, un libro che parla di 7 storie di persone normali che hanno affrontato però situazioni anche eccezionali, portando la loro creatività, la loro capacità, la loro passione, con la volontà appunto di crescere e far crescere il sistema. Lo ricordo allora, Federico Fubini, Noi siamo la rivoluzione, edito da Mondadori, 189 pagine per 17,50 euro, storie di uomini e donne che sfidano il loro tempo. Grazie a Federico Fubini, grazie a quanti ci hanno ascoltato, ringrazio Filippo Reggi in regia e Luca Cremonese in redazione. Questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e buon sabato sera.